Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro, e a guidare la radro sai che ci mettiamo? Ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a nove code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ed eccoci qua, cari ascoltatori, anche in questa versione del 5 gennaio. Oramai siamo al penultimo giorno senza Alessandro Milan, che torna dalle sue vacanze. Goditi queste ultime ore, Alessandro. E quindi Oscar Giannino che vi saluta e vi ringrazia dell'ascolto. E andiamo subito, come consuetudine, a fare gli auguri a chi oggi festeggia l'onomastico. Oggi, giorno prima della Befana, è Santa Amelia. In realtà di questa martire sotto Diocleziano in Spagna, giro, lo sappiamo poco o niente. Come sappiamo poco o niente di Santa Emiliana Vergine, un'altra martire, sappiamo un po' di più di San Tiziano, e c'è anche San Deogratias oggi, per chi si dovesse chiamare Deogratias, vescovo di Cartagine al tempo dei Vandali di Genserico. Quindi questi sono i santi del giorno. Abbracci e auguri a tutti voi. I giornali di oggi sono giornali con poche grandi notizie dominanti. Diciamo che la grande sveglia che i mercati mondiali hanno dato a chi non avesse capito che bisogna essere prudenti, perché tra la frenata cinese, la grande instabilità medio orientale e comunque una debolezza che resta forte anche nei paesi avanzati e che si aggiunge alle grandissime crisi di paesi emergenti un tempo fortissimi, fino all'altro ieri, dal Brasile alla Turchia e così via, tutto questo ieri ha dato una tale vigorosa stretta ai mercati finanziari che sono questi sviluppi commentati su tutti i grandi quotidiani italiani. Io mi limito a segnalarvi due commenti se volete approfondire. A me è piaciuto molto il pezzo di Francesco Daveri, il professor Francesco Daveri sul Corriere della Sera, e del professor Mario De Aglio, Mario De Aglio sulla Stampa. E questo è un primo filone che si aggiunge al secondo filone. Anche qui sono sviluppi dopo i fatti dei giorni scorsi, quelli delle tensioni tra Iran e Arabia Saudita. Anche qui molte interviste di esperti internazionali, scenari per i quali è molto facile che questa crisi tra i paesi di riferimento del fronte sciita e sunnita sarà sempre più dura e durerà a lungo, e l'ISIS naturalmente ne godrà ogni beneficio, e quindi questo un secondo filone. Poi c'è un terzo filone, questo un po' più fresco come sviluppo, quello della chiusura, quello del fatto che si continuano a perdere pezzi di Schengen, e quindi l'Europa continua a ritirare su frontiere, e quindi anche qui su ogni grande giornale reportage e approfondimenti sul fatto che per la prima volta da 50 anni alla frontiera tra Svezia e Danimarca si torna ai controlli dei documenti, e questo perché la Svezia, che ha 9,7 milioni di abitanti, ha avuto 160.000 asilanti che ha ospitato nel corso dell'anno. È come se noi in Italia avessimo dato ospitalità a 1 milione di richiedenti asilo. Ecco, questa è la proporzione demografica, ed è per questo che la Svezia dice: no, noi iniziamo a richiedere i documenti anche a chi viene dalla Danimarca. Ecco, su questi, diciamo, grandi filoni a cui sono dedicate le prime pagine, poi ci sono un po' di notizie che attirano, per così dire, la mia e spero anche la vostra attenzione. Intanto vi dico subito che se volete telefonare 800 24 00 24, noi oggi avremo due approfondimenti. Il primo sarà per la notizia di ieri sullo sciopero delle sepolture a Poggio Reale. Chiederemo a uno dei lavoratori della cooperativa: ma è possibile mai che dobbiamo arrivare al punto che in questo paese non è un servizio pubblico essenziale neanche la sepoltura dei morti? Si arriva a scioperare anche su questo? Giusto, non giusto secondo voi? Direte: ma ci sono problemi più rilevanti? Beh, insomma, mica tanto, cioè se neanche la vita e la morte è garantita come servizio pubblico essenziale, che diavolo esistono a fare i servizi pubblici? Le questioni fondamentali sono queste, secondo me. quindi provate a telefonare su questo se volete, soprattutto se poi siete a Napoli, diteci come la pensate. Ma secondo filone Rai, perché avremo un consiglio di amministrazione della Rai, e ancora sulla lunga coda del capodanno disastroso della Rai, con tutti i particolari, ci sono 5 anni di capodanno organizzati oramai a Matera dalla Rai per beccarsi 3 milioni di euro che spende la Basilicata, no, che la Basilicata prende dall'Europa per fare, per girarne mezzo milione l'anno alla Rai, che a quel punto occupa il capoluogo della Basilicata con centinaia e centinaia dei suoi tecnici, spendendo mezzo milione di euro l'anno. E soprattutto eccoci alle grandi nomine della Rai, di Renzi, di Campo dell'Orto, a giudicare dai giornali, vedremo un po' di nomi e titoli, e tale quale a prima è una Rai iperpartitica, iperlottizzata, anzi di governo, non più dei partiti. Allora parleremo di questo con il nuovo consiglio di amministrazione, fresco consiglio di amministrazione della Rai, Giancarlo Mazzucca, e soprattutto io inviterei voi a chiamare. Ma l'avete capito o no che con la Rai riformata da questo governo l'unica cosa che conta è che l'amministratore delegato è espressione solo del governo? Ci sono due consigli di amministrazione solo del governo su 7, prima erano comunque dei partiti nominati dalla commissione parlamentare di vigilanza. La differenza è che la presa politica è ancora più forte di prima. Questa sarebbe la grande svolta che alla Leopolda 4 anni fa veniva presentata come necessità di ridurre il servizio pubblico, e quindi solo con spot senza pubblicità su 8 reti Rai su 15, cedendo invece Rai 1, Rai 2. Questo era l'impegno assunto da Renzi e Renziani alla Leopolda. E quanto alla governance Rai, nella Leopolda del 2011 si diceva: uno schema alla BBC, ci vuole una fondazione filtro, basta i partiti che nominano i direttori di testata attraverso i dirigenti manager messi dai partiti. Adesso è più politicizzata di prima, ne parleremo con consigliere d'amministrazione. Ma voi intanto potete telefonarci per dire se siete un po' delusi o se invece pensate che è giusto che Rai abbia Renzi abbia la Rai sua, per così dire. Allora, altre notizie che mi hanno colpito: tra un po' è un anno di Charlie Hebdo in Francia, e su ogni giornale troverete la reazione francese alla copertina con cui il settimanale francese satirico si appresta a festeggiare l'anniversario della strage, ed è una copertina che questa volta fa arrabbiare insieme non solo di nuovo i musulmani, ma pure le gerarchie cattoliche francesi, perché il direttore Riss del settimanale raffigura l'autore, per così dire, anzi il mandante della strage di un anno fa, come se fosse in fuga, con le vesti insanguinate, le mani lorde di sangue, e chi è Dio, con tanto di triangolo in testa e una mitraglietta che ha appena sparato alle spalle, dicendo: il responsabile ancora in fuga, non è stato arrestato. Non l'avessero mai scritto quelli di Charlie Hebdo, perché a questo punto i vescovi francesi dicono: non si avverte proprio la necessità di cose di questo genere. Insomma, ci siamo illusi, cari ascoltatori, un anno fa tutti a marciare per le vie di Parigi perché non si tocca il sacro diritto alla satira, la sintesi della civiltà illuminista francese, Voltaire dell'Occidente. Ma di che cosa stiamo parlando? La realtà è che poi abbiamo scoperto nei mesi successivi che il più dei grandi giornali, anche quelli italiani, quelle vignette non le ha mai pubblicate, e non le ha repubblicate neanche dopo la strage. E un anno dopo, di fronte a una copertina inoffensiva, e il Dio raffigurato secondo il canone, per chi non avesse visto la vignetta, ebraico giudaico cristiano, con tanto di triangolo l'occhio dentro, quindi si sono tenuti un pochino più discosti da una qualunque, che del resto non esiste, iconografia, come ovvio, di Allah. Ma comunque condanne durissime in Francia. Mi sembra che l'ipocrisia della reazione di un anno fa, a distanza di un anno, sia più forte che mai. Da questo punto di vista vi segnalo il commento l'articolo, anzi, di Stefano Montefiore, corrispondente del Corriere della Sera da Parigi, e il commento di Marco Imarisio. Poi un'altra notizia che mi ha colpito è che, siccome la grande notizia di ieri era la quotazione in borsa, giornata disastrosa per le borse, ma comunque, di Ferrari con Renzi, testimonial d'eccezione del suo grande amico Marchionne, Repubblica, tra tutti i giornali italiani che tonano la fanfara per Ferrari, Fiat Chrysler, bla bla bla bla, e i grandi risultati nel mese della quota Fiat Chrysler in Italia, che torna al 28% con aumenti a doppia cifra, eccetera eccetera eccetera. Però la Repubblica è l'unico quotidiano che dà una chiave di lettura di quello che è avvenuto ieri, a mio giudizio marcando un po' troppo una dichiarazione di Marchionne nella conferenza stampa. Che cosa dice Repubblica dopo aver speso anche lei pagine nel dire la Cina affonda le borse, eccetera, eccetera? Il retroscena, in un pezzo firmato da Paolo Griseri, è quello secondo il quale ieri Marchionne avrebbe annunciato per la prima volta di cedere lo scettro a John Elkann, perché sarà lui identificare l'alleato nel grande consolidamento internazionale storia dell'auto della Fiat dopo, intorno al 2018, non prima se non dopo, quando io non ci sarò, ha detto Marchionne. E da questo punto di vista, secondo me, hanno forzato un po' l'interpretazione. In realtà i mercati e molti grandi fondi di investimento si aspettano e identificano anche la quotazione di Ferrari separata da Fiat per estrarre valore rispetto a Fiat come grandi passi in vista di una ipotesi di OPA ostile guidata da Marchionne, come no, tra fine 2016 e inizio 2017 a General Motors. Quindi la mia opinione è che sia stata questa dichiarazione di Marchionne una maniera per fare un po' di fumo intorno a questa che gli analisti del settore continuano a identificare come il suo vero obiettivo. Vedremo, ma Repubblica è invece l'unica a dire, Marchionne oramai si avvia ad aver celebrato e fatto il più di quello che si aspettava da chi ha preso la Fiat, che era praticamente tecnicamente fallita nel 2004, ed era di nuovo tecnicamente fallita nel 2008. Poi vediamo altre notizie un po' sfiziose. Il commissario Tronca continua a far molto discutere le sue decisioni, perché l'altro ieri ha confermato di andare avanti nel suo grande piano di taglio di 180 milioni di spese a Roma, che a me entusiasma, perché è come se ci fosse un governo nazionale che tagliasse la spesa pubblica in un anno di 24 miliardi sugli oltre 800 miliardi di spesa pubblica. Ce lo sogniamo, ma quando mai? Renzi, che ha buttato via tutti i commissari alla spending review. Invece Tronca a Roma fa sul serio. E in questo piano c'è la conferma della gestione a privati anche degli asili nido, perché gli asili nido a Roma sono 209, di cui solo 7 in concessione ai privati, ma la differenza è che i 7 in concessione ai privati sono molto più efficienti e garantiscono molti meno oneri. Naturalmente non l'avesse mai detto Tronca, tutti i partiti da destra alla sinistra lo azzannano, ma come osi, commissario, privatizzatore, amico dei privati, e la gestione in concessione del servizio, non è che diventano privati, c'è l'asilo dei nazisti e quello dei comunisti, neanche per idea. Ma i partiti, quando si tratta di dire stupidaggini, essendo loro i responsabili dei soldi buttati ai servizi inefficienti, non li batte nessuno. Quindi il mio giudizio continua a essere viva Tronca. Trovate articoli su questo, non solo sul Messaggero, ma su molti altri quotidiani. A me piacerebbe anche chiedervi, a dire la verità, ma adesso non lo faccio perché andiamo al primo ospite, se non pensate che abbiano ragione gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, come scrive il Corriere della Sera e anche Repubblica, si apprestano a formalizzare le prime richieste di sanzioni alla Volkswagen. Avete visto che sui giornali è sparita la grande attenzione per la truffa del diesel, perché molti ritengono che è montata, anzi alcuni hanno scritto sui grandi quotidiani è un'offensiva politica dell'America contro il settore dell'auto europeo. Vabbè, detto tutto questo, invece l'America si appresta a formalizzare richieste di sanzioni che verranno poi giudicate, ci sarà un po' di tempo, non gliele comino un giorno l'altro, ma pensate, può arrivare fino a 19 miliardi di dollari la sola parte delle sanzioni federali alla Volkswagen, perché gli fanno pagare fino a 32.500 dollari per ogni motore truccato fino a 2.000 di cilindrata, e sono 495.000 negli Stati Uniti, e fino a 37.000 dollari per ogni motore 3.000 di cilindrata, e sono altri 85.000 motori negli Stati Uniti. Non è meglio così, piuttosto che il silenzio connivente coi produttori, che è diventata subito l'area dominante dei grandi giornali e delle informazioni formazione italiana ed europea inchinata di fronte ai grandi produttori, tranne il fatto che poi spariamo le paginate per il PM10 se non piove nelle città, visto che la radice poi è questa, e i regolatori europei sono del tutto conniventi con i grandi produttori automobilistici europei. Perdonate, perché io facendo informazione ormai non ne posso più di questo bispensiero di andare dietro la demagogia nei giorni in cui non piove e però non guardare i grandi poi responsabili dell'inquinamento, perché si è conniventi con i grandi interessi, i regolatori lo sono molto più in Europa che altrove. Allora andiamo al primo ospite e al primo tema, che come vi avevo preannunciato ci riporta alla vicenda dello sciopero dei becchini. Mi dispiace, è un termine che a me non piace, di coloro che sono addetti appunto alle sepolture pubbliche al cimitero di Poggioreale, quindi a Napoli, ed è con noi Ciro Buonincontro, che è uno dei 35 lavoratori in sciopero dipendenti di una delle 5 cooperative che hanno bloccato le sepolture. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ciro, buongiorno a tutti. Ciro, ma come si arriva a una decisione di questo tipo? Si arriva a una decisione di questo quando vedi nero su bianco che il Comune di Napoli ha deciso di privatizzare il servizio cimiteriale e a noi non ci ha preso proprio in considerazione. Dopo tanti anni di duro lavoro, dandogli una mano a braccetto, perché loro sanno benissimo che le abbiamo dati una mano, perché il Comune di Napoli già era in deficit ma 20 anni fa. E infatti è una storia pluridecennale quella del deficit, e poi negli anni alle nostre scale anche degli scandali, perché i politici si prendevano pure le tangenti sui loculi, su questo, quella situazione. Questa è poi una cosa lunga. Che... Non so, negli anni alle nostre spalle sono accadute molte cose. Sì. Adesso il Comune dice, ma non è una novità, si sapeva che noi avremmo proceduto a un cambio dell'affidamento di gestione dei servizi, perché voi siete una cooperativa con affidamento di servizi, è vero o no? Sì, allora... Siccome il Comune non fa più assunzioni, su questo non ci piove, e sta privatizzando tutti i suoi settori, sicuramente ci sarebbe stato questo giorno che avrebbero privatizzato anche il cimitero. Però noi avremmo voluto da parte del Comune, dei dirigenti, dei direttori, degli assessori, un po' di buonsenso e dire: guardate, voi siete quelli che per tanti anni avete fatto anche le nostre braccia, e allora ora vi teniamo in considerazione e vi mettiamo anche a voi nello statuto. Invece la voce nello statuto di questo bando di gara noi non ci stiamo proprio stati presi in considerazione. E allora può darsi che sicuramente tra meno di un mese staremo tutti sul lastrico. Perché voi dite, non è che ci opponiamo del tutto alla gara, però fateci partecipare, ho capito bene? Non possiamo partecipare, esatto, perché questa, come noi siamo scritto... delle piccole aziende, sì. Noi siamo delle piccole aziende a costo zero. Quindi questa gara è di 2 milioni e mezzo di euro solo nel cimitero di Poggioreale, ma il bando completo è di 4 milioni. Noi con anche unendoci tutte e 5 cooperative... Non siete sopra la soglia minima per poter partecipare. Mai potremmo partecipare. E quando l'avete chiesto al Comune, la giunta attuale che vi ha risposto? Non vi ha risposto? No, ha detto che loro per legge non esiste un articolo, un comma, un punto, una virgola che possono mettere e autorizzarci che noi siamo già là. Loro dicono semplicemente è improbabile, è impossibile che venga una qualsiasi ditta e non prenda voi che già state qua nel settore. Però, si lavano le mani. No, certo, loro si lavano le mani dicendo: noi siamo costretti a mettere una soglia elevata per questa gara, ci dispiace, vedrete che chi vince ci penserà. Ma davvero fate, perdone la domanda un po' colloquiale, nel dire che fino a che non c'è sta gara, per un mese almeno, fino al 2 di febbraio, il giorno della gara d'appalto, il servizio di sepoltura è sospeso? Da parte nostra noi abbiamo stretto le braccia, l'unica cosa che ci rammarica è il dolore delle povere persone che hanno le salme nella sala deposito, un tavolaccio, ma questa cosa se ne dovrebbe rendere conto il sindaco De Magistris, che sta scopertissimo sulle carte, c'ha 6 dipendenti, 7 dipendenti, questi sono al massimo, è ultra sessantenni. Siamo noi che abbiamo fatto il lavoro dei comunali per tanti anni e non ci sta prendendo in considerazione. Non ci sta un articolo, un comma, hanno detto non esiste niente per metterla sullo statuto del bando di gara. Il disegno di legge del bando di gara dicono che non si può cambiare perché quella è legge. Sì, ma però noi siamo stati qua per tanti anni. Di noi tu ti sei servito, lo sai benissimo, perché se no il comune già 20 anni fa era in deficit. Noi all'epoca eravamo tutti abusivi, loro sapete cosa dissero? che dovevamo formare delle cooperative a norma di legge, perché sennò non potevamo stare. E voi l'avete fatto. E adesso dite, con la scusa della soglia per la gara, ci escludete. Allora, Ciro, vediamo come va questa storia. L'appello di tutti, non posso dirle se non il fatto che tutti quanti scrivono dicendo sì, però insomma non è possibile, non è accettabile dal punto di vista civile, come minimo dignità civile condivisa, con tutto rispetto per le ragioni di chi lavora alla cooperativa del cimitero di Poggio Reale, che si possa stare un mese con i defunti abbandonati sui tavolacci. Cioè è una roba inaccettabile. Io non so se non rischiate, Ciro, questo ve lo devono dire i vostri avvocati a cui vi siete affidati, eventuali azioni penali. Pensateci bene, perché è facile che qualcuno a quel punto faccia esposti penali nei vostri confronti. Comunque, grazie a Ciro, buon incontro. Dai messaggi direi che non hanno molti dubbi la maggioranza dei nostri ascoltatori. Pubblicità. Eccoci, tornato in diretta in questa penultima versione prima del ritorno di Alessandro Milan, Oscar Giannino qui Attenti a Noi Due. Abbiamo sentito un rappresentante della cooperativa del cimitero di Poggio Reale che in questi giorni ha deciso questa manifestazione singolare di astensione dal lavoro, cioè loro non seppelliscono più i corpi al cimitero di Poggio Reale. Dovesse passare un mese fino a che non viene confermato il loro diritto almeno a partecipare alla gara per l'astensione del servizio, e il Comune di Napoli dice no, perché la gara ha un soglie minime stabilite per legge, se voi non vi consociate con altre e non rientrate, non è che siccome l'avete fatto per anni partecipate comunque. In realtà la giunta formalmente ha ragione. Naturalmente qui è un principio che si contrappone: da una parte dice come per anni adesso ci volete mandare via, dall'altra l'efficienza, ma soprattutto ci va di mezzo la dignità di tutti. Vedremo che cosa succede e se qualcuno anche non mette mano a una richiesta che io comprenderei di una tutela del diritto delle famiglie dei defunti. Vediamo, perché in Italia tutto è possibile, gli scioperi sono sacri, naturalmente io ho qualche dubbio, però vediamo. Allora, altro grande argomento che riguarda tutti, cari amici che pagate il canone in bolletta, la vera parte forte della riforma della RAI, perché per il resto, ripeto, la governance è solo dare più poteri al governo invece che levare la politica dalla RAI, più poteri al governo, ripeto, alla Leopolda si era detto l'esatto contrario e si era indicata la BBC e si era indicato l'obiettivo di cedere, di privatizzare Rai 1 e Rai 2. Pensate, questo aveva detto Renzi prima di diventare presidente del Consiglio e segretario del PD. Allora, siccome voi tutti pagherete di più, e l'effetto della riforma è dare alcune centinaia di milioni di euro in più alla RAI, perché per effetto del minor astensionismo dal pagamento, diciamo così, minore evasione del pagamento del canone, che da un 27% stimato agli italiani dovrebbe scendere a quant'è l'evasione sulle bollette elettriche, cioè 5-6%, grazie a questo sono 200, dai 200 ai 400 milioni di euro in più alla RAI, questa è la stima. E la RAI ha iniziato con questo capodanno tragico, il SMS, l'insulto, Giancarlo Leone, direttore di Rai 1, che dice no, ma ci deve pensare la RAICOM della struttura tecnico di De Servo, renzianissimo, De Servio che dà ai giornali la prova che invece il direttore di Rai 1 sta mentendo e dice no, ci doveva essere un filtro di redazione. Ma al di là di questo, un capodanno per 5 anni impegnato con la regione Basilicata, 3 milioni di euro di fondi europei che la Basilicata usa per tenersi la RAI, perché nel 2019 Basilicata e Matera è capoluogo della città europea della cultura, quello che volete voi, ma insomma la stessa RAI di sempre. E negli articoli ieri e oggi su tutti i quotidiani sulle nomine in arrivo direttore di rete e testate, simpatie politiche come criterio per le possibili nomine a RAI 1, RAI 2, RAI 3, TG1, TG2, TG3. Si aspetta Verdelli, il nuovo direttore editoriale indicato, però la ciccia è sempre la stessa. A me questa cavolo di RAI nuova mi sembra come prima, peggio di prima. Ne abbiamo per parlarne un consiglio d'amministrazione con noi, che io ringrazio di sottoporsi a questo confronto franco, anche perché in realtà è un collega, il suo direttore del giorno, oggi è membro del CDA RAI, Giancarlo Mazzuca. Buongiorno e grazie, buongiorno, Giancarlo. Buongiorno, allora, buongiorno a tutti. Io ti invito come primo commento, sentiamo prima una dichiarazione di Renzi alla conferenza stampa, quella di fine anno, sui giornalisti. Lui era ospite dell'Ordine dei giornalisti e Renzi è esordito così. I giornalisti è una posizione che è nota, io sarei per abolirlo, non ho fatto mai niente in questa direzione, perché ritengo che tutto ciò che si avvicini alla discussione sulla libertà di informazione esiga una grande prudenza da parte del governo, ma come tutti voi sapete, toccasse a me lo abolirei domani mattina. Benissimo, e questo lui lo abolirebbe domani mattina. Invece anche Marchionne ieri ha svelato una inaspettata propensione e ha detto questo. E che cosa vorrà fare dopo e se... Vorrei fare il giornalista, questo... Ecco. L'ho detto più di una volta, perché mi piace il fatto che uno può fare domande senza mai essere responsabile per le risposte. Questo mi piace molto, cioè rompere le scatole agli altri. E poi le voglio chiedere... È una cosa che fate veramente bene, alcuni lo fanno con affetto, altri no, però come professione mi piace. A Marchionne uno potrebbe rispondere che è lui che ha presentato 9 piani industriali regolarmente contraddetti e non realizzati. Vediamo adesso questo al decimo. Però detto questo, tutti dicono che il problema sono i giornalisti. Però se iniziamo a vedere gli articoli sui giornali di oggi, riportano le solite voci di nomine, tutte politicamente targate e attribuite. Sta riforma non è come prima, peggio di prima, Mazzucca. Dunque, allora, cominciamo dall'incidente di Capodanno. Innanzitutto lì ci sono stati degli errori evidenti, la RAI avrebbe dovuto chiedere scusa ufficialmente subito, ecco. Ci sono state delle mezze scuse e questo è stato un errore. Dopodiché però in Italia c'è un po' l'usanza di parlare bene della Banca d'Italia e dei Carabinieri, parlare sempre male della RAI. Ora anche con la Banca d'Italia si comincia a parlare male, visto l'ultima vicenda delle banche. Della RAI si parla sempre male e si fa di ogni erba un fascio. Ecco, io non vorrei che di fronte ai 40 secondi di ritardo di Capodanno si finisce per fare un gran polverone e si facciano delle nomine affrettate. Anche perché appunto il problema è un altro, le nomine, i direttori, io faccio il giornalista e faccio anche il direttore di giornale, tutte le varie promozioni devono essere fatte in base a un piano editoriale, industriale, occorre che il nuovo direttore generale, che adesso diventerà anche amministratore delegato, proponga al CDA un piano editoriale industriale ben preciso, il Consiglio dovrà valutarlo, dovrà esaminarlo e soltanto sulla base di queste scelte che devono essere condivise da tutto il Consiglio di amministrazione occorrerà poi procedere alle nomine. Si possono fare evidentemente delle nomine dall'alto perché sarebbe un errore. E non vorrei appunto che tutto questo baccano che è stato fatto in questi giorni per i 40 secondi anticipo finisse per fare un grande pasticcio ancora peggio di prima. Prima si parlava tanto di RAI lottizzata, ecco, non vorrei che la RAI diventasse una RAI a partito unico. Anche se però a vedere i pezzi, virgola, e soprattutto a giudicare da che cosa è davvero cambiato con la riforma, cioè, ripeto, un amministratore delegato, Campo Dall'Orto, l'ex direttore generale, con poteri molto più forti di prima e nominato, indicato dal governo, e 2 consiglieri nel consiglio di amministrazione, espressione diretta del governo, che si aggiungono ai 4 espressioni della maggioranza, che sono poi figli della scelta in Parlamento, e effettivamente il dato di fatto, Mazzucca, è che la presa del governo è molto più forte di prima. Se uno legge oggi 2 articoli a caso, quello di Marco Castoro sul Messaggero a pagina 13 e quello su Repubblica di Aldo Fontanarosa su Repubblica a pagina 15, la cosa che vede è che il criterio per il quale Campo Dall'Orto starebbe giudicando prima ancora dell'insediamento ufficiale di Verdelli, il direttore editoriale che in teoria Mazzucca dovrebbe presiedere all'elaborazione di quelle indicazioni che poi sarebbero portate dall'amministratore delegato in consiglio di amministrazione per illustrarvi i criteri per le nomine, però qui si parla di tempi ristrettissimi. Chi dice prima di Sanremo, chi dice dopo il Festival di Sanremo, tanto per riferirsi a un grande evento RAI che arriva a febbraio, e però i criteri sono se far passare Mannoni al posto di Bianca Berlinguer al TG3 perché Mannoni è meno ostile a Renzi rispetto a Bianca Berlinguer, però risponde Repubblica, no ma Bianca Berlinguer però è andata a intervistare Renzi, quindi non è detto che poi cambi. Poi c'è chi dice ma Gianni Riotta, perché Gianni Riotta è molto allineato con Renzi, dice però Campo Dall'Orto avrebbe detto a Renzi no, non possiamo farlo direttore del TG1, teniamoci Orfeo che è già così ben allineato, l'attuale direttore, a Renzi, ma invece Riotta magari possiamo metterlo a Rai 3. Io le faccio una domanda, Mazzucca, sono secondo lei i colleghi giornalisti che inventano, lei è direttore di giornale, sa che non è così, è tutto falso quello che leggiamo? Non lo so, io ufficialmente nessuno mi ha ancora interpellato per discutere di questi nomi, quindi potrebbe essere falso, come potrebbe essere vero, potrebbe passare nella mente di qualcuno che è vicino al direttore generale, ma nel consiglio d'amministrazione ancora di nomine non se ne è parlato. Quando se ne parla noi discuteremo e vedremo, vaglieremo, perché si faccia una scelta professionale, dopodiché molte volte vengono anche un po' forzati questi. Ecco, la cosa positiva in tutta questa vicenda che è stata messa anche da questa discussione stamattina è che il Consiglio di amministrazione, è vero che due sono nominati direttamente dal partito di maggioranza, altri due sono membri che fanno capo alla maggioranza, eccetera. Ecco, però è un Consiglio di amministrazione molto allineato, facciamo una squadra e cerchiamo di agire per il bene della RAI. Quindi io credo che se ci saranno nomine giuste, il Consiglio si schiererà a favore di queste nomine, altrimenti ci sarà molta discussione e molti contrasti. Io, per quanto mi riguarda, non ho nulla da perdere, sono direttore di un giornale e sono soprattutto un giornalista, credo di essere stato nominato perché appunto sono un giornalista e quindi conosco abbastanza la materia. Ecco, io mi impegnerò per arrivare a delle nomine editoriali, però appunto evitiamo delle strumentalizzazioni come si sta rischiando di fare in questi giorni. Secondo lei non c'è niente di male nel fatto che la RAI si, per così dire, leghi contrattualmente di qua al 2020 a fare i capodanni da Matera, perché la regione Basilicata mette sul piatto 3 milioni di euro? Sì, si poteva anche discutere anche di questo fatto, non si è discusso in consiglio di amministrazione. Ecco, se posso aggiungere una cosa su quello certo. Che lei ha detto all'inizio, dice noi paghiamo di più il canone. Non è vero, noi paghiamo meno il canone, perché prima pagavamo 113, mi sembra qualcosa, adesso con il nuovo, punto canone si paga 100 euro ciascuno. Sì. La cosa è che è successo? È successo che prima c'era un'evasione del 30%, esatto. E non era giusto che il 70% i soliti noti dovessero pagare il 30% faceva finta di niente. In questo modo dovrebbero pagare tutti, l'evasione dovrebbe, come ha detto lei, scendere al 5%, sì. Al 30%, quindi in questo senso è positivo. No, ma no, ecco. Però voglio dire, io parlavo dell'effetto sulle casse della RAI, la RAI ecco. Ha stimato molto prudentemente non più di 200 milioni e tutti quanti facendo il conto hanno detto, beh, dipenda, perché se si fa davvero il 5%, che la RAI ha detto, voi prendete molti soldi in più, tant'è che tutti i concorrenti, e tutti i concorrenti. No, adesso le spiego cos'è, le spiego meglio. Anch'io sarei stato favorevole che la RAI prendesse queste cifre in più e magari mettesse un tetto alla pubblicità per aiutare anche i concorrenti. In un momento di grave crisi dell'editoria si aiutassero tutti. Invece la RAI prenderà soltanto una parte in più di quello che potrà essere versato alle casse dai contribuenti, il resto viene direttamente incassato dallo Stato. Hai capito? Il resto, perdoni, per essere concreti, perché sono. Allora, voi infatti avete stimato un abbattimento dei documenti ufficiali, non personalmente, dell'azienda collegati al budget per l'anno prossimo, stimano l'abbattimento al tasso di evasione intorno al 12% e non al 5% come quello delle bollette elettriche, proprio per essere in linea con il fatto, perché RAI sanno fare bene i conti e sanno essere collegati al governo, che a voi arriveranno circa 200 milioni in più e non i tanti in più che arriverebbero sul totale. Comunque 200 milioni non sono pochi, perché il resto il governo lo utilizza, chi a sovvenzionare per le radiotelevisioni piccole, chi per una ragione che l'altro, c'è il bonus per i 75 anni e così via, per altre finalità. Però insomma l'azienda prende molti soldi in più, tant'è che tutti i privati hanno protestato dicendo cavolo, questo in realtà va bene che deriva da come si paga il canone, però per noi è un dito nell'occhio in anni di pubblicità come questo. E ripeto, non si cambia la disciplina della pubblicità su nessuna rete. Giancarlo Mazzucca, io glielo chiedo perché la conosco. Un bel dibattito su cosa doveva essere il perimetro del servizio, sì, pubblico, andava fatto. Questi in Parlamento non l'hanno fatto per niente, neanche stavolta. Infatti, questo è vero. Siccome questo è vero. Sì, ma io sono stato un sostenitore fin dall'inizio, quando ero giornalista prima, appunto, della RAI, sul discorso di ridurre l'evasione fiscale e l'evasione del canone. Dopodiché effettivamente si poteva trovare una formula per aiutare anche le altre imprese, come un tetto alla pubblicità della RAI, in modo tale che tutte quante le altre reti potessero avere un piccolo vantaggio, non soltanto un vantaggio della RAI. Però ripeto, quella, la cifra in più verrà incassata dallo Stato per ridurre genericamente le tasse, non si capisce che modo. Ma questo lo vedremo, questo lo vedremo. Io dico solo, e non ce l'ho con gli attuali consigli di amministrazione, che siccome la riforma è stata lanciata da chi aveva promesso una generale revisione del sistema del servizio pubblico, il concetto del servizio pubblico, perché c'è il contratto di concessione in scadenza alla fine del 2016, se ne è ben guardato. Quindi una cosa si dice quando bisogna fare i rottamatori, l'assalto ai vertici dei partiti, buttare a mano il presidente del Consiglio precedente, quando poi si sta al governo si fa la RAI del governo e non si discute su niente. Quindi si leverà la pubblicità, questo è l'impegno, solo sulle due reti per bambini. Su tutto il resto non è mai stato aperto un dibattito se fare come la Gran Bretagna, che mette il canone più elevato solo per le reti di servizio pubblico e non per quelle che non hanno contratto di servizio pubblico offerte da BBC, ma scegliendo a chi è in Gran Bretagna, dandogli l'opting out: se non le vuoi vedere quelle reti lo autodichiari e non paghi il canone e non le vedi. Oppure se fare come in Spagna, Olanda, Polonia, in tanti paesi che hanno abolito il canone, si paga un po' con fiscalità generale e per il resto con la pubblicità. Noi questo dibattito non lo abbiamo fatto, riparleremo nei prossimi mesi per vedere se sulle nomine succederà quello che ci garantisce o che si impegna a fare il consiglio di amministrazione Giancarlo Mazzucca, cioè niente nomine prima di un piano e a tempo debito, oppure se invece i giornali non stanno inventando e la politica detterà tempi e nomi con i vecchi criteri di sempre, anzi questa volta con i criteri più stringenti a favore del governo. Grazie Giancarlo Mazzucca. Vediamo come la pensano alcuni di voi su questi fatti del giorno che abbiamo un po' intavolato con i nostri ospiti. Cominciamo con Riccardo, che si chiama da Bolzano. Prego Riccardo. Sì, buongiorno. Gianino. Buongiorno. Niente, io penso che quei 40 secondi di ritardo che hanno fatto Capodanno sono irrilevanti, secondo me, certo, a fronte di tutto l'impianto della RAI che è venuto fuori dalle nomine di Renzi. Che poi Renzi sia uno che dice una cosa, poi ne fa un'altra, ormai è risaputo, è da quando che è lì che lo fa. Quindi e secondo me poi adesso, siccome è ancora più lottizzata, perché è proprio tutta in mano a Renzi la RAI con queste nomine, e tutto quello che è la comunicazione, i notiziari, quindi quello che è, diciamo, la stampa della televisione, cioè le notizie date a chi guarda la televisione, è tutta manipolata, è sempre stato così, ma adesso sarà ancora peggio. Ecco, insomma, soprattutto non si vede questa grande discontinuità, anch'io devo dire, io trovo un'informazione molto molto molto allineata. Aggiungo, mica un problema solo la RAI, oramai i grandi giornali, ieri c'è stato Corriere della Repubblica, hanno annunciato, secondo le due, una grande riforma in arrivo del governo. Deve vedere, quella delle partecipate pubbliche annunciate da Repubblica è una roba, se abbiamo capito bene, che non entra in vigore prima del 2017, di cui nessuno ha i testi. L'unica cosa che diceva Repubblica è che si sostituiscono in 7.700 partecipate gli attuali CDA, per carità, un amministratore unico, per il resto su eventuali criteri di cessioni, accorpamenti, fusioni, dove, come, perché anche Repubblica non aveva nessun particolare. Questa è la grande riforma in arrivo, ma scherziamo o facciamo sul serio? E così via, cioè, e quindi è una concezione del giornalismo modificata secondo le convenienze di Filippo Sensi, il comunicatore di Palazzo Chigi, e molti grandi giornali ci cascano in pieno oramai, alcuni dei cui direttori trovate nel Toto Direttori di questi giorni per nomine governative. Io non voglio fare il cattivo, però sarà un caso, sarà una necessità. Quindi c'è un problema dell'informazione italiana, cioè dell'informazione con la schiena dritta, non verso Renzi, perché il problema non è verso Renzi, è verso il potere in quanto tale. Certo, non cambia con Renzi, che invece ci aveva promesso il cambiamento. Sentiamo come la pensa Vito da Bari. Vito. Pronto? Pronto, dica. Buongiorno a tutti quanti. Volevo intervenire a proposito, non so se è ancora quel signore, perché io poi ho spento la radio per non... No, è appena finito l'intervento. Giancarlo Mazzucca, il commissario di amministrazione. Ci dica però. A proposito della RAI. Sì. Ecco, questo signore che non ha fatto come lei, che non ha chiamato evasori, quelli che non pagano il canone, esatto, non sono tutti evasori. Esatto. perché io non ho il televisore, veramente non ho il televisore. No, ma siccome tecnicamente è una tassa sulla proprietà degli apparati di ricezione, non è che tutti devono pagare a prescindere. Come sarà invece il presupposto della bolletta elettrica, tra l'altro? Io sono molto preoccupato su questo fatto, anche se relativamente, perché venisse la finanza, venisse chi, ma poteva anche venire già in passato. Io mi ritengono un evasore. Io non lei sono un evasore. Sarà tenuto, secondo le norme, siamo in attesa del decreto di attuazione, ma sì, lei sarà tenuto a un'autodichiarazione nella quale rischia il penale, rischia la contestazione penale a prescindere da un qualunque accertamento. Questa è la trappola che ci hanno messo in questo cavolo di riforma. Io alzo il tono perché, siccome ci trattano da delinquenti a difendere i nostri diritti, l'idea di mettercelo in bolletta elettrica con la presunzione, questa è la cosa, che a ogni utenza, a prescindere da chi è intestata rispetto ai vecchi titolari del canone, perché ci saranno un mucchio di contestazioni, questo significa avere in quella bolletta, a quella titolarità individuale di nome, l'apparato di ricezione, perché altrimenti lo devi autodichiarare e automaticamente sei esposto a un esposto penale prima che qualcuno venga a verificare. Questa è una trappola indegna di un paese civile, secondo me. Io sono mi piace l'idea che alcune persone come Vitto da Bari, in perfetta trasparenza e onestà, dichiarino il loro stato. Mi dispiace invece che la maggioranza della gente sia insensibile a questa maniera con cui lo Stato ci tratta. Lucio da Napoli, come la pensa, Lucio? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io chiamo in realtà non tanto immagino per, per la vicenda di Poggioreale. Esattamente, certo. Esattamente. Diciamo, premetto che il mio commento è principalmente di metodo e solo parzialmente di merito, sì, perché nonostante io chiami da Napoli non frequento spesso il cimitero, quindi ho sentito varie vicende ma non preferisco non riferirle perché non ne ho esperienza diretta. Sì. Allora, quello che è vero sicuramente a Napoli, come penso in molte altre città... Però diciamo che intorno alle vicende delle cooperative che fanno quel servizio, da molti anni io ho fatto un accenno, ci sono tante vicende anche penali e così via. Esattamente, cioè diciamo che la gestione delle cooperative, soprattutto quelle, che è il caso di quelle del cimitero, come il suo ospite ha detto, che nascono da una sorta di regolarizzazione, esatto, di situazioni abusive... Non è proprio molto un trionfo della trasparenza. Diciamo. Ecco. Esattamente. Allora vado, quindi questo se vuole è solo parzialmente di merito, perché è la premessa. E per dire però... Se vuole, diciamo, giusto che visto che in Italia bisogna sempre dire, io De Magistris non l'ho votato e non lo voterei. E va bene. Non ho nessuna simpatia. Credo tuttavia che sarebbe stato opportuno, diciamo la critica a lei... Ammetterli alla gara? No, almeno chiedere a qualcuno dell'amministrazione. No, a me. Ma questo lo faremo, perché tanto dura un mese. No, questo è giusto appunto da parte di Lucio, subito accolto. Allora, siamo in chiusura, continuate su Radio 24, appuntamento con me alle 4:30 con la versione di Oscar.